Tutti convocati Magazine. Tutti convocati anche oggi, anche se è sabato, tutti convocati sulle note di questa meravigliosa samba che saluta il debutto della Confederations Cup questa sera a Brasilia, stadio Mané Garrincha, Brasile contro Giappone, poi domani la nostra nazionale contro il Messico nel monumentale Maracanã. Brividi mondiali che attraversano non solo la schiena dei brasiliani che nelle prossime due settimane si presentano al mondo a un anno esatto dal mondiale, ma brividi anche per noi amanti della maglia azzurra perché le ultime due prove contro Repubblica Ceca e Haiti sono state davvero da brividi, ma di paura. Un saluto da Giovanni Capuano e un saluto a Matteo Marani, direttore del Guerin Sportivo. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio, bentrovati. Beh, che bella la samba però, eh? Sì, sicuramente, ma devo dire anche questo evento cui guardiamo comunque con interesse. C'è questa sorta di magia nera che fa sì che chi lo vince l'anno dopo non riesce a vincere il mondiale, però al di là delle scaramanzie credo che sia un avvenimento importante per valutare e testare il livello raggiunto ovviamente dalle varie nazionali, per rendersi conto se si è vicini o lontani dalla concorrenza. E poi il fatto di sbarcare in Brasile già di per sé è una suggestione, pensare al Maracanã, al nuovo Maracanã, basta quello credo. Non c'è dubbio, Guerin Sportivo che è in edicola con la solita dettagliatissima guida alla Confederations Cup, sì, devo dire che al di là di Brasile, Italia e ovviamente della Spagna, poi interessa vedere l'Uruguay, diciamo che sarà un test per vedere come stanno queste nazionali, però che è rimasto a casa, penso prima di tutto all'Argentina e alla Germania. Certamente guarderà con attenzione, ma noi stessi nel giudizio dovremo fare poi il conto con questi invitati che non ci sono e che invece fra un anno saranno dei protagonisti, se non i favoriti, insieme alle squadre che abbiamo citato per la vittoria finale. È un test importante, sì, attenzione però a non dargli troppo peso. No, questo sono d'accordo, non c'è dubbio, insomma, dicevo anche prima, anche il precedente dimostra che non è che sia il banco di prova definitivo. Però è significativo perché ci sono almeno quattro nazionali che sono candidate alla vittoria del prossimo anno. Ci mettiamo ovviamente l'Italia, ci mettiamo il Brasile che padrone di casa, l'Uruguay perché comunque almeno a questo precedente storico di essere stata la nazionale che ha vinto nell'unica volta precedente in cui si è giocato in Brasile, e la Spagna che ovviamente è campione del mondo. Poi le nazionali che citavi tu, certamente l'Argentina, certamente la Germania. Poi magari qualche outsider che potrebbe essere l'Olanda, nazionali altre che sono fuori dalla Confederation Cup potrebbero vincere il prossimo anno, però quattro importanti ci sono intanto. Sì, non c'è dubbio che in questa edizione la Confederations Cup dal punto di vista dell'interesse proprio per ciò che succede sul campo fa forse un salto di qualità, sarà grazie alla presenza del Brasile che è il padrone di casa ed è il favorito numero uno tra un anno, sarà per la presenza della Spagna che ha un ciclo che probabilmente si sta esaurendo, però di sicuro l'interesse anche dal punto di vista proprio tecnico sportivo è un interesse che in passato raramente ha accompagnato questa manifestazione che è stata un po' inventata dalla FIFA per raccogliere soldi, ma non ha mai fatto innamorare i tifosi. Ma guarda, noi un po' la ricostruiamo la storia di questa Coppa anomala nello speciale cui facevi riferimento, insomma, ci sono parecchie pagine, abbiamo ripercorso la storia della Coppa che in realtà nasce nel Natale 1980-81 in Uruguay con la famosa Coppa de Oro, che era un tentativo un po' di scimmiottare il mondiale argentino di tre anni prima. E lì nacque l'idea di mettere di fronte le varie confederazioni. Allora ci andò l'Italia, tanto se non sbaglio coincise con un gol unico di Ancelotti. E poi da lì ci sono state varie forme, c'è stata la Coppa Franchi, poi diventata, è stata presa dalla FIFA a metà degli anni 2000 e lì si è cercato di dargli più struttura. Sono d'accordo, anche secondo me, già un pochino in Sudafrica il torneo ha preso rilevanza. Davvero l'impressione che ho io è che questa sia una sorta di battesimo per la Confederation, che c'è in Brasile, in un grandissimo paese, in un momento in cui l'attenzione mediatica nel frattempo è aumentata ulteriormente, quindi c'è anche fame di eventi, e quindi mi pare che stavolta sia una manifestazione che un po' di sapore l'ha preso. Sì, i brividi nostri invece, i brividi della nostra nazionale, troppo brutti per essere veri contro Repubblica Ceca e soprattutto Haiti. Diciamo che contro Haiti possiamo anche dire che non faceva testo. Ho visto però un Prandelli particolarmente preoccupato, mi è sembrato, in quest'ultima settimana, in queste prime giornate in Brasile. Sì, preoccupato. Lui ha parlato soprattutto di questione fisica, di problemi della squadra nella non brillantezza. Io aggiungo che ci sono un po' di vicende individuali che inevitabilmente si riflettono sul gruppo, su tutte quelle del Sharawi, che probabilmente accusa un momento particolare, il fatto che sia stato messo tra virgolette sul mercato anche dal Milan, c'è la vicenda Marchisio aperta, cioè ci sono un po' di situazioni che certamente non aiutano, io credo, la serenità del gruppo, perché sì, è difficile dire di non essere distratti poi da queste voci, soprattutto se riguardano giocatori importanti come Marchisio, che io credo fino a un mese fa pensasse dentro di sé e anche legittimamente di essere il futuro della Juventus, il futuro capitano, il dopo Buffon. Io credo che per lui sia stato un duro risveglio questo non essere inserito tra gli incedibili, tra Conte, e negli incedibili ci sono finiti Pogba e Vidal ad esempio. Difficile mantenersi sereni. Ma io ti confermo che c'è molta irritazione nell'ambiente Marchisio, perché evidentemente la cosa non può essere stata accolta bene, inevitabilmente. Parliamo di un giocatore che, al di là del rendimento straordinario sul campo in questi anni, ma insomma è l'inizio della Juve di oggi, cioè è cresciuto in settore giovanile, l'ha fatto tutto, tifoso, portato dal padre allo stadio. Tra l'altro devo dire che in questi anni a Marchisio le offerte non sono mancate dall'estero, dai grandi club stranieri, e correttamente, da quanto risulta a me, il giocatore ha sempre rimandato alla società, cioè mentre ci sono giocatori un pochino, come dire, meno coerenti, meno trasparenti, e che magari tentano anche di portare avanti qualche trattativa parallela, Marchisio se ne è guardato, proprio perché, come dire, Juventino dentro. Insomma, sì, Marchisio rappresenta la juventinità da un certo punto di vista. Guarda, facevo una riflessione in questi giorni, mi domandavo, ma secondo voi, ripeti, l'avrebbe ceduto Tardelli, avrebbe soltanto preso in esame all'età che ha oggi Marchisio, cioè a 26 anni, nel pieno della sua carriera di cedro? Io penso di no, spero che la Juve, visto che è un grande club, visto che ha grandi dirigenti, che tutti stimiamo, faccio un discorso chiaro e dica che Marchisio non è sul mercato. Sì, io credo che sarebbe la scelta più giusta. Allarghiamo il discorso e andiamo direttamente in Brasile. Saluto Emiliano Guanella, inviato di Sky Sport dal Brasile. Buon pomeriggio, buonasera Emiliano. Buon pomeriggio, buonasera a voi. Dove ti trovi? Mi trovo a Brasilia, dove fra poco si inaugurerà questa Confederation Cup. Stadio Mané Garrincha, abbiamo detto, costato più o meno mezzo miliardo di euro solo per la costruzione. Qual è l'attesa del Brasile per questa Confederations, al di là degli aspetti calcistici? Poi però parliamo anche del Brasile, Emiliano. Beh, al di là degli aspetti calcistici, la Stadio Mané Garrincha è una di quelle che ormai la definizione dal Sudafrica, forse anche prima, ci portiamo appresso, è una cattedrale nel deserto, nel senso lo stadio più caro di quelli costruiti o in costruzione, 12 in tutto per le 12 sedi del mondiale, o ristrutturati però ampiamente come il Maracanã, che è praticamente uno stadio nuovo rispetto a quello vecchio. Ma il Mané Garrincha è particolare perché Brasilia, che è la capitale del Brasile dal 1960, non ha un club praticamente né nella prima né nella seconda divisione, bisogna andare alla terza divisione. Gli spettatori paganti in media del campionato brasiliense, cioè del campionato di Brasilia, sono, ieri lo leggevo sulla stampa locale, 575 a partita, e qui invece abbiamo uno stadio costato tantissimo, più di 60.000 spettatori, molto bello, è uno stadio tra l'altro che per le esigenze di FIFA dovrebbe ospitare praticamente solo calcio. Insomma, i brasiliani ci credono poco, credo certamente. È stato un grande affare politico, soprattutto, come spesso accade. Uno stadio molto bello, ma temo anche molto inutile. Tutti convocati Magazine. Ancora con la samba che saluta il debutto oggi della Confederations Cup, questa sera Brasile contro Giappone, Matteo Marani, Emiliano Guanella con noi. Direttore Marani, parlavamo di queste cattedrali nel deserto, questo è un test anche per il Brasile. Io nei giorni scorsi ho guardato con raccapriccio anche le fotografie, i video arrivati dal Brasile con queste coperture che perdono, con stadi chiusi per ordine dell'autorità giudiziaria. Diciamo la verità, noi continuiamo a guardare con un po' di sospetto al Brasile che tra un anno ospiterà il Mondiale. Ma sì, insomma, da quello che ci viene riferito, poi sicuramente può essere più ricco di informazioni, da quello che ci viene riferito, da quello che si riesce a capire, ci sono state delle evidenti difficoltà. Tra l'altro mi risulta che la FIFA a un certo punto abbia preso un po' in mano la situazione per accelerare, perché c'era parecchia preoccupazione anche sui tempi di consegna e quant'altro. Quando ci sono questi grandi eventi, a qualunque livello, in qualunque paese, c'è una sorta di gigantismo che si impossessa delle situazioni, che fa sì che spesso, come dire, l'impegno sia talmente grande da un punto di vista operativo ed economico che apre delle falle. Insomma, i casi sono tanti, penso anche al Sudafrica che comunque ha avuto delle difficoltà, l'Ucraina che è partita con l'europeo praticamente senza strade. Sono queste sfide, insomma, lanciate spesso da paesi emergenti, come nel caso del Brasile, uno dei famosi BRICS, per cercare di dare un'immagine anche di modernità sull'esterno, con tutte le difficoltà che questo comporta. Non mi nascondo neanche il fatto che nel giro di tre anni praticamente avrà Confederation, Mondiale, Olimpiadi, quindi lo sport guarderà lì per i prossimi tre anni, è un impegno incredibile. Sì, le Olimpiadi poi saranno il culmine di questo percorso. Emiliano, sono pronti i brasiliani? I brasiliani, dal punto di vista dell'emozione, dell'entusiasmo e di quel jeicinho brasiliano, cioè sostanzialmente quell'arte di arrangiarsi, anche molto italica, molto latina, e sono convinti che poi alla fine sarà bellissimo, sarà tutta una grande festa. Il Brasile ha dei grandi problemi, io credo che sugli stadi arriveranno praticamente tutti gli stadi, il problema dell'Engenhao, lo stadio, il secondo stadio di Rio, appunto col tetto che non funziona, costruito nel 2007, molto spesso si è detto l'Engenhao ha il miglior nome per uno stadio sospettato di corruzione perché si chiama João Avelange. Quello che invece non ce la farà coprire queste falle enormi sono i problemi di infrastrutture, le telecomunicazioni che sono disastrose in Brasile. Voi avete appena avuto un problema giustamente di linea telefonica, ma anche di 4G, di copertura di banda larga, la rete degli aeroporti. Il Brasile è il secondo paese al mondo per traffico commerciale privato, cioè di aerei che portano passeggeri in giro per il Brasile, e perennemente in ogni vacanza importante, carnevale, capodanno e via dicendo, il sistema va in tilt, quindi ci possiamo immaginare cosa succederà con il Mondiale. La FIFA non voleva 12 sedi in Brasile, anche perché il Brasile ha la dimensione di un'Europa e mezzo, quindi 12 sedi con distanze di 2-3 mila chilometri da una sede all'altra. Ovviamente i calcoli politici hanno fatto sì che bisognava accontentare un po' tutti i governatori, un po' tutti i partiti, e quindi portare il Mondiale un po' ovunque. Io credo che dal punto di vista della festa, dell'aspetto sportivo, degli stadi, ce la si farà. Ci saranno grandissimi problemi invece per chi lavora e per chi appunto pensa di trovare un paese moderno dal punto di vista delle infrastrutture, invece c'è ancora molta strada da fare. Sarà un Mondiale faticoso anche dal punto di vista logistico. Matteo Marani, da questo punto di vista io credo sia un grandissimo vantaggio poterlo testare per la nostra nazionale, oltre che per la Spagna e per tutte le altre che sono invitate a questa Confederations Cup, poterlo testare con un anno di anticipo. Ho l'impressione che nel atterraggio un po' poco morbido della squadra di Prandelli in Brasile in queste giornate ci sia stato forse anche qualche errore di preparazione per come arrivarci, e questa sia tutta esperienza che verrà utile fra un anno. Sì, questo senz'altro. Tra l'altro anche questo blocco degli alimenti, del mangiare, il cibo che si sono guardati dall'Italia, lì io trovo a volte un po' esagerato questa cosa. Sì, possiamo mangiare anche il parmigiano brasiliano, non si sì, muore. Sicuramente la cucina brasiliana, voglio dire, una cucina buonissima. C'è anche un po' di marketing. Esatto, sicuramente, ma anche credo un po' questa vecchia consuetudine dove si porta la roba da casa, che è tipica degli italiani, che si mettono in borsa magari un piatto di pasta da cucinare dove vanno. Comunque, detto questo, sì, è un test, servirà anche questo, servirà per capire gli spostamenti, le misure del Brasile, che sono misure ampissime. Se ricordo bene, gireremo soltanto in questa Confederation per tre stadi, migliaia di chilometri da Bahia a Recife, quindi già questo deve essere utile per capire che non è un Mondiale fatto in un piccolo paese, è un Mondiale fatto in un grandissimo paese, dove c'è ovviamente una grande attenzione, dove c'è un clima, dove c'è un fuso orario del quale tenere conto, quindi penso e spero questo. Se però posso aggiungere, voglio anche dire che dal punto di vista tecnico deve essere usato bene, sfruttato bene questa Confederation Cup. L'errore di Lippi nel 2009 in Sudafrica, secondo me, fu proprio quello di sprecare l'opportunità di di capire quale doveva essere la nazionale, andò dritto con la sua testa e malgrado l'esito negativo della Confederation Cup rimase sulle proprie posizioni e poi pagammo con la sciagurata spedizione dell'anno dopo. Sì, mi pare di capire che Prandelli abbia costruito la sua Italia su Balotelli, almeno per quanto riguarda le opzioni offensive. Ha fatto una scelta da questo punto di vista simile a quella di Allegri e del Milan, e difatti ne sta soffrendo il Sharawi che il Milan ha messo sul mercato, che Prandelli domani sera molto probabilmente metterà in panchina per far giocare Giaccherini. Io credo non sia soltanto una questione di difficoltà a livello fisico e mentale per il Sharawi. Chi questo inverno scriveva di uno scarso adattamento di questa coppia veniva rimproverato dal Milan, invece probabilmente i numeri dicono una verità, cioè se il Sharawi ha smesso di segnare quando è arrivato Balotelli non può essere solo un caso. No, non è un caso, e devo dire che questa riflessione l'ha fatta il Milan, che magari rimproverava chi lo scriveva, però sull'interno credo che l'abbia fatto questo pensiero, altrimenti non avrebbe messo il Sharawi sul mercato come è. Per cui la compatibilità tra i due comincia a essere un problema, cioè da quando è arrivato Balotelli in effetti il Sharawi ha smesso di segnare, se non sbaglio 16 reti nella prima parte, appena 3 nella seconda. Sì, non segna da febbraio, quindi per un attaccante stiamo parlando di una vita e mezza. Soprattutto di un attaccante che nella prima parte aveva retto da solo il Milan nel momento più difficile, ed è uno di un talento straordinario. Ma io guardo, non conosco la dinamica, poi la dinamica all'interno di un gruppo, di un rapporto di spogliatoio sono anche complicate. La mia impressione è che lui soffra molto la personalità di Balotelli, non solo in campo ma anche fuori. Cioè mi sembra che sia un po' a traino di Mario. E, per dirla con un'immagine, l'attaccante alfa mi sembra Balotelli in questa vicenda. E quindi anche il Milan sta ragionando su questo. E Sharawi è entrato un po' in un tunnel nero, ovviamente sportivo. Ci sono difficoltà, al punto che Prandelli sta pensando di mettere questi due trequartisti dietro la punta, dietro l'unica punta. Se vogliamo sintetizzare un po' una bocciatura di quello che invece doveva essere la coppia assoluta azzurra su cui tutti erano disposti e disponibili a puntare. Sì, su cui puntava anche Galliani, che non più tardi del mese di gennaio diceva: ci siamo assicurati al Milan la coppia che sarà la coppia della nazionale per i prossimi 6 o 7 anni. Grazie Matteo Marani. Grazie a voi. Grazie Matteo Marani. Restiamo invece con Emiliano Guanelle, parliamo del Brasile che debutta questa sera. Io ho letto ieri un'interessante intervista, Matteo, di Zico alla Gazzetta dello Sport, che dice: non è vero che il Brasile è in declino, però il problema è che noi continuiamo a esportare i nostri giovani talenti, il nostro campionato interno è destinato ancora e comunque a rimanere un campionato di vecchie glorie che arrivano qui per svernare. Però, qualcosa è cambiato, nel senso che se guardiamo i convocati della selezione di Felipe Scolari, ce ne sono bene 11 che giocano nel campionato brasiliano. Questo è un record, pensiamo al Brasile degli ultimi 3 o 4 mondiali, erano praticamente quasi tutti giocatori che giocavano in Europa. Di questi 11 bisogna togliere la stella che ha giocato fino all'altro ieri nel Santos, Neymar, e che andrà nel Barcellona. Perché Neymar? Perché molto ruota intorno a Neymar, è coccolato, difeso d'oltranza. Io ho intervistato Scolari recentemente, lui ha detto: io difendo Neymar anche quando gioca male, così come ho difeso Rivaldo prima del Mondiale 2002. Sì, così come Prandelli difende Balotelli anche quando è indifendibile. Esatto, Rivaldo tra l'altro che fece in qualche modo vincere quel mondiale. Balotelli tra l'altro, faccio un piccolo inciso, abbiamo scoperto qui insomma tra gli inviati di Sky che c'è una vera Balotelli mania in Brasile. Balotelli è già stato a Salvador de Bahia al teatro della partita tra Italia e Brasile e l'altro giorno Neymar ha dichiarato il suo amore, ha dichiarato che sono un tifoso di Balotelli, ha detto, e veramente Balotelli è il giocatore italiano e forse il giocatore europeo più popolare in Brasile proprio per il suo modo di essere. Speriamo che questo non distragga la mente e i piedi del nostro attaccante. Ma tornando alla Seleção, Scolari si ha l'impressione che stia provando, è giusto provare durante la Confederation Cup, è un po' meno giusto quando sei il paese ospitante, quando è praticamente l'ultima competizione importante, quando non hai giocato le qualificazioni sudamericane che sono assolutamente uno dei tornei più difficili al mondo. Basta vedere l'Uruguay, campione d'America, che sta avendo difficoltà per qualificarsi ai mondiali. E quindi insomma questi test che sta facendo Scolari, che è da pochi mesi il nuovo allenatore del Brasile, i brasiliani guardano un po' perplessi perché non sta piacendo molto questa selezione. Sì, perché il risultato di questa Confederation varrà per tutti, ma a maggior ragione varrà qualcosa di più per il Brasile. Grazie Emiliano Guanella. Grazie a voi. Tutti convocati Magazine. E lasciamo le atmosfere brasiliane e ci trasferiamo in Israele, perché oggi è il sabato della semifinale della nostra Under 21. Manca davvero poco, mancano poco più di due ore a Italia-Olanda. Saluto Paolo Ghisoni, collega di Sky, molto esperto e attento delle cose che riguardano il calcio giovanile. Buon pomeriggio Paolo. Buon pomeriggio Giovanni, direi più attento che esperto però, attenzione. Attento ed esperto, come esperti siamo diventati un po' tutti, questa sera addirittura Italia-Olanda su Rai 1 ha fatto traslocare la partita del Brasile contro il Giappone su Rai 3. Io credo che questo sia il termometro esatto di qual è l'attesa intorno all'Under 21, Paolo. Beh sì, se pensi che la prima partita che l'Italia-Inghilterra ha fatto quasi 5 milioni di ascoltatori, insomma, fa effettivamente riflettere sul fatto che questa Under 21 ha un seguito molto molto simile a quella allora guidata qualche ventennio fa da Vicini, quando c'erano Mancini, Viali, Giannini, Zenga, Ferri, insomma quel gruppo che perse contro la Spagna la finale a Flaminio, e però fece innanzitutto sognare parecchi italiani, e poi dopo si rivelò il nucleo storico di Italia 90, che poi arrivò praticamente alla semifinale senza perdere, uscire ai mondiali senza perdere, perché con l'Argentina 1-1 e poi calci di rigore. Anche se quel gruppo si fece amare poi con la nazionale maggiore, soprattutto nell'avventura dell'Europeo dell'88, dove partiva assolutamente scarico di responsabilità, e io credo andò forse anche più vicino di quanto si pensa poi a coronare un'impresa che sarebbe stata straordinaria. Comunque noi siamo abituati abbastanza ad innamorarci della nostra Under 21. Io non trovo sorprendente quello che sta accadendo in queste settimane. In fondo è una squadra molto simpatica, oltre che forte, a partire ad esempio dal suo allenatore, da Dennis Mangia, che è uno che se la tira poco, però è bravo. Ottimo comunicatore, è un discreto allenatore, chiaro, deve dimostrare ancora molto ai massimi livelli, però molti dei miei colleghi pensano sia stato messo lì per grazia ricevuta dopo l'esperienza nella primavera del Palermo. Invece consiglio di andare a vedere un po' su Wikipedia la sua storia calcistica, che parla anche di esperienze in serie minori, quindi la sua gavetta l'ha fatta. È una nazionale, tornando al discorso di prima, simpatica per il semplice fatto che, oltre ad avere facce simpatiche, ha grande personalità e gioca bene, gioca con sfrontatezza. Adesso non voglio fare paragoni irriverenti, però insomma il Milan di Sacchi stupì l'Italia e l'Europa giocando a viso aperto con tutti, soprattutto in trasferta. Avere giocatori come Verratti, come Insigne, che daranno la possibilità anche di tenere il pallone tra i piedi senza che scotti, personalmente insomma mi fa, tra virgolette, passatemi il termine, anche un po' godere calcisticamente. Perché significa andare a giocare alla pari con tutti, non avere timore riverenziale, ad esempio, di giocarsela alla pari con la Spagna, e credo che insomma sia una delle candidate al successo, anche se Giovanni, io ho visto le partite dell'altro girone, bisogna dire che la Dea Bendata ci ha dato una grossa mano. Non c'è dubbio. Di là la stessa Russia, che ha preso 5 gol dall'Olanda, è una squadra che farebbe veramente paura a noi, ma a tutte le Under 21 europee. Germania, se pensiamo che è rimasta fuori la Germania. Sì, è andata bene, insomma. Sì, tu hai nominato Arrigo Sacchi, noi lo avevamo invitato a questa chiacchierata, come ogni buon uomo di calcio e di sport ha detto ne parliamo quando questa avventura in Israele sarà finita, però io credo che tu il nome non l'abbia fatto a caso. C'è anche molto di Arrigo Sacchi dietro la scelta di Mangia e dietro a un piccolo rinascimento del nostro calcio giovanile. Non più tardi di un mese fa abbiamo vissuto la parabola sfortunata, perché poi è terminata con una sconfitta ai calci di rigore di un'altra nazionale giovanile, che però contro è contro la Russia, è arrivata all'atto finale del suo europeo. Io credo che non siano un caso questi segnali. No, non sono un caso, la mentalità che ha portato sicuramente Arrigo e il suo vice Viscidi a livello, diciamo, settore giovanile nazionale, chiaramente è abbastanza evidente. Sacchi ha voluto anche giocare sul sicuro, ha messo, diciamo, nei ruoli cardine tutte figure conosciute bene a livello, chiaramente, esperienze precedenti. Insomma, hai citato tu l'Under 17, c'è Daniele Zorato, che era un suo ex giocatore nel Parma e che ha portato ai mondiali del 94, c'è Chico Evani che è responsabile dell'Under 18 e Under 19, che conosciamo benissimo quale legame ha avuto col Milan di Sacchi, insomma credo che si sia circondato di gente fidata. Nell'Under 20 c'è Gigi Di Biagio, ma te lo dico, tanto non ci ascolta nessuno. No, sarà il prossimo allenatore dell'Under 21. Dell'Under 21, e quindi credo che alla fine questo sia un po' il novero dei personaggi di cui Arrigo si è circondato per cercare di impostare un determinato tipo di discorso. E devo dire, io ho avuto ospite Maurizio Isci da me recentemente, proprio quando l'Under 17 in una partita di preparazione giocò contro la Spagna, e i segnali furono molto confortanti al di là del risultato, fu una sconfitta casalinga, ma proprio nella capacità di misurare alcuni parametri che sono il possesso palla, la capacità insomma di giocare proprio a viso aperto con loro, insomma ci fu un segnale piuttosto confortante, ripeto, non dal punto di vista del punteggio che purtroppo badiamo come l'unica cosa essenziale, ma come riscontro del campo. Ecco, se riusciamo un po' forse a tralasciare il discorso del risultato a tutti i costi, guardiamo un pochettino più in là, qualcosina di buono c'è, chiaro, adesso ci sono pure i risultati, ma questo è un Under 21, voglio dire, che se avesse tutti gli elementi potrebbe fare ancora più paura, perché lo ricordiamo, Balotelli potrebbe essere tranquillamente lì. Sicuramente un Under 21, e Sharawi è un Under 21, certamente. Sì. Io credo che da questo punto di vista Prandelli abbia anche fatto onestamente uno sforzo per aiutare Mangia e per aiutare la federazione, lasciando ad esempio Verratti a questa squadra che affrontava la fase finale dell'Europeo. È un segno di rispetto, io credo sia anche un buon segno, è anche un segno che comunque dimostra l'attenzione verso questa squadra, che può essere un po' uno dei simboli di questa nostra rinascita. Noi nei mesi scorsi abbiamo parlato spesso con Arrigo di Academy, di formazione, di tutto quello che in Italia non c'è stato e ancora adesso c'è poco rispetto a tante altre esperienze che ci sono all'estero. Io credo che questa settimana, e poi speriamo nella finale, noi dobbiamo guardare con grande simpatia i risultati di quest'anno. Sì, l'abbiamo detto prima, effettivamente può essere un bel serbatoio per poi chi va a giocarsi i mondiali del 2014. Il momento è sicuramente favorevole dopo gli europei della nazionale maggiore, dopo il punto di non ritorno dei mondiali sudafricani, insomma qualcosina si è cominciato a costruire. Io ribadisco sul fatto, la mia personale opinione, che comunque i risultati non devono essere fuorvianti. Ripeto, è sicuramente una cosa positiva questa semifinale, potrebbe essere qualcosina in più, ci auguriamo tutti che lo sia, però è un programma secondo me un pochettino più a lungo respiro, e soprattutto, ripeto, se Prandelli non avesse avuto questa delicatezza, l'Italia probabilmente, come tante altre nazioni, avrebbe avuto il discorso di avere giocatori meno forti di quelli che ha a disposizione adesso, perché io faccio sempre un esempio dell'anno scorso, quando si celebrò il successo della Next Gen Cup dell'Inter. L'Inter aveva una squadra, diciamo, proprio come possibilità di età al massimo, cioè giocava Livaia, tanto per dire. Sì, era la fine del ciclo di sì, quella primavera. Sì. Giocavano comunque ragazzi che da lì a poco abbiamo visto anche lo stesso Duncan, Krizic, insomma piazzati in Serie B. L'Ajax, i giocatori buoni, teoricamente schierabili per quella finale, li aveva perché stava giocando le fasi finali del proprio campionato, quindi giocò con quelle che poteva essere la formazione, adesso facendo un paragone un po' irriverente, degli allievi nazionali. Loro e altri paesi sono già proiettati in un'altra dimensione. Noi, dal mio punto di vista, ci stiamo arrivando, perché ci sono tante squadre primavera che già quest'anno schieravano 96 e 97, quindi voglio dire, una fra tutte il Napoli, quindi mi sembra che piano piano il processo di crescita, forzatamente, debba arrivare a queste soluzioni. Sì, insomma, poi il salto dovremmo farlo più avanti, perché si legge ad esempio i nomi di Lorenzo Insigne, riserva nel Napoli, Saponara, vediamo quanti minuti di qualità avrà l'anno prossimo con il Milan, mi viene in mente Mattia Destro con le sue difficoltà nella Roma, penso anche allo stesso El Shaarawy, che alla fine è l'oggetto finito sul mercato, alla faccia del progetto giovani del Milan. Pensa Borini allora, pensiamo anche a Borini che è finito in Inghilterra perché da noi spazio non ne trovava se non al Parma. Paolo, per chiudere, l'eredità che deve lasciare anche questa avventura dell'Under 21 è forse quest'ultimo salto culturale. Sì, io credo che lo abbiamo detto tante volte, è una campagna personale che sto facendo anche a Sky, cioè la Serie B. In Italia se non c'è la possibilità di creare queste seconde squadre, che credo che non ci sia perché ci sono troppe beghe politiche tra, diciamo, difficile metterli d'accordo prima, tutti. Sì, prima, seconda divisione, Lega, credo che la Serie B forzatamente debba essere il serbatoio per far crescere e far come dire, arrivare ad alti livelli questi ragazzi. Io faccio un esempio solo, che ho fatto tutto l'anno. Il Bari quest'anno ha fatto una stagione strepitosa, perché è partito con una penalizzazione di 7 punti, è arrivato a ridosso dei playoff. Torrente è un ottimo allenatore. Ci sono due cose anacronistiche che si stanno rivelando. Torrente ha dovuto ricominciare dalla prima divisione, ha firmato un contratto recentemente di 2 anni contro la Cremonese, che è una piazza sicuramente... Sì, non ha avuto la promozione che meritava. E la seconda cosa è il fatto che il Bari aveva un'età media di 23.4, vuol dire che era sostanzialmente una squadra perfettamente in linea con quello che potrebbe essere un progetto basato sui giovani. L'Ajax di Puglia, la possiamo ribattezzare così, Paolo? Assolutamente sì. Mi dai notizie tu di quando il Bari si può iscrivere al campionato di Serie B? Perché al momento questa situazione paradossale è che loro probabilmente l'anno prossimo già partono con, sì, punti di penalizzazione. Ci sono anche problemi poi che esulano dal contesto sportivo e purtroppo ce ne siamo occupati. Paolo, ti devo salutare, ti ringrazio. Un abbraccio. Tutti convocati Magazine. Di nuovo insieme ci tuffiamo in questo ultimo blocco del nostro appuntamento nel mondo del basket, perché questo è il weekend che potrebbe essere decisivo per scrivere le storie delle serie finali in NBA e da noi. E allora partiamo proprio da gara 3 a Siena, Montepaschi Acea Roma, si parte dall'1-1, ripercorriamo l'analisi di coach Dan Peterson. Well, now they gave him his orders in Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38, this is old 97. Put her in the Spencer on time. Coach Peterson, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, amici sportivi. La notizia è che abbiamo ancora una serie di finale del campionato italiano a 13 minuti dalla fine di gara 2. Il sospetto che fosse tutto quasi finito, sinceramente, era forte. Io stavo facendo la partita per Sport Italia, ho detto, dopo questa partita gli articoli, le interviste che faccio io saranno di necrologia, spiegando la morte, le speranze di Roma. Invece Roma ha trovato, come ha detto giustamente coach Marco Calvani, hanno trovato fiducia e ci hanno creduto, e magari perché non avevano nulla da perdere, spalle al muro, senza scelte, hanno giocato con una decisione, cioè non hanno avuto incertezze, esitazioni, niente di questo. Hanno giocato con grande certezza, grande decisione, grande determinazione, e hanno fatto parziale 32-14 negli ultimi 13 minuti partiti. Cioè non solamente la bontà dei 32 punti in 13 minuti, che sono da tanti, ok, una media di 96-97 punti a partita, ma anche tenendo Siena, che stava, come hai detto perfettamente, dominando il campo, a 14 punti in 13 minuti chiave con una difesa asfissiante, annullando tutto, cioè i tiri da tre dei Moss, i tiri da tre, la penetrazione di Bobby Brown, l'inclusione di Hackett, hanno fatto una rimonta, una delle più belle che abbia mai visto io, soprattutto nel finale dei playoff. Sì, il mantra è difesa, difesa, difesa. Del resto Marco Calvani l'aveva detto anche dopo gara 1, se difendiamo così prendiamo il cucchiaio di legno. Dopo gara 2 ha detto almeno il 4-0 ce lo siamo risparmiati. Io però ho l'impressione, coach Peterson, che finalmente le finali siano entrate nello spirito a cui noi siamo abituati della finale di un campionato, di una finale di un playoff, quindi grandi nervi, grandi errori, molte scelte sbagliate, alla fine vince chi sbaglia meno. Bravo, chi ha sbagliato meno ha vinto la partita, assolutamente, perché errore, palle perse, cioè hanno cominciato il terzo quarto, palla persa qui, palla persa là, palla persa qui, palla persa, cioè, c'erano due punti fatti nei primi, non so, 3-4 minuti del terzo quarto, una cosa inaudita. Quindi nervosismo, stanchezza, perché questa è stata la 77esima partita per Siena quest'anno, vengono da due serie, anche Roma, due serie di 7 partite, quindi un po' corto di fiato, un po' corto di gambe, e quindi i nervi a fiore di pelle, e questo è il risultato. Sì, quanto resterà sulla pelle, quanto rischia di restare sulla pelle il modo in cui è maturata la sconfitta di gara 2 per Siena? Siena è incredibile, guarda caso in semifinale hanno perso gara 6, la prima volta in 48 partite che perdevano una partita di playoff in casa, ok? E sono andati in gara 7 a Varese a spancare Varese, quindi loro hanno questa grande qualità di poter smaltire, cioè proprio una sconfitta così in 48 ore, tornare in campo con rinnovata determinazione. Quindi Roma non può pensare minimamente di avere qualche sconto domani sera, lo escludo. Mentalmente è una squadra quasi indistruttibile Siena, grazie coach Peterson. Ciao ragazzi a tutti. E domani notte si gioca anche in Texas, gara 5 della finale NBA, Miami-San Antonio sul 2-2. Riascoltiamo l'analisi di Flavio Tranquillo. Prende il tiro da tre! Lo mette! Colpo da giocatore di biliardo al tabellone! Più due match! La partita si accende, la serie decolla! Il palleggio per Michael Jordan! E ha spazio! Tutti lo aspettano! Può essere l'ultima azione della... Guai a dare per morti i tre di Miami. Ciao Flavio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Guai a darli morti. Ma guai in generale a fare la consueta critica a chi ha vinto ha già vinto la serie, chi ha già perso la serie, per poi invertire i ruoli alla partita dopo. Ormai sostanzialmente è da gara 3 della serie contro gli Indiana Pacers che va avanti questo giochino per i Miami Heat. È ovvio che ci sia qualcosa che non funziona, è altrettanto ovvio che ci sia molto che funziona. Poi finché non si ferma la pallina il punto non si può fare. Sì, intanto gara 4 ha detto LeBron James 33 punti, uno più di Wade, che penso però possa essere indicato come il personaggio di questa partita, e chissà se in proiezione anche il personaggio del resto della serie, che a questo punto è diventata una serie 2 su 3. Assolutamente, i punti di Wade, o in generale la prova di Wade, ha una maggiore importanza rispetto a quella di LeBron, anche perché è funzionale a quella di LeBron James, nel senso che la convivenza con quel Wade di quel LeBron James a quel livello era insostenibile, penso a gara 3, senza necessariamente pensare che Wade possa fare 32 tutte le volte, se no stiamo solo facendo un countdown per la parata dei Miami Heat. Però avere Wade in campo attivo che punisce una difesa chiaramente speculativa dei San Antonio Spurs fa tutta la differenza del mondo per Miami e in specifico per LeBron James. Parlando di San Antonio, Parker buono, ottimo nei primi due quarti, sparito nella seconda metà della partita, c'è questo problema alla coscia, non si capisce se come lo abbia condizionato. Secondo te, in proiezione, anche portandoci verso gara 5 e gara 6, è l'indicatore di quello che può essere il destino degli Spurs? Ma io penso che nel ginocchio di Wade e nelle cosce di Parker e Ginobili ci sia una parte importante di questa serie, ma poi tanti altri giocatori avranno piccoli e grandi problemi che noi neppure conosciamo, come non conosciamo la reale entità dei problemi di questi tre. Io penso che gli Spurs sappiano che quando girano tutti i cilindri degli avversari, gli avversari hanno qualcosa in più. Però hanno anche la coscienza che, avendo rubato nel senso migliore del termine gara 1, adesso sono in una serie al meglio delle tre partite. Domenica è una questione soprattutto di energia. Finora la terza partita, la quarta partita, ma anche la prima e la seconda sono state chiaramente vinte, e vinte spaccandole a un certo punto dalla squadra che quella volta aveva più energia. Vediamo domenica, perché diventa ancora più importante proprio alla luce di tutti questi piccoli o grandi problemi fisici. Sì, può essere un po' la partita chiave della serie. Miami ha riacquistato il vantaggio del fattore campo, è sicuramente una squadra che ha qualcosa in più rispetto a San Antonio se le cose funzionano. Ho l'impressione che anche psicologicamente abbia azzerato lo shock della prima sconfitta, e da questo punto di vista portarsi sul 3-2 potrebbe avere un peso decisivo. Ma io penso che se dovesse vincere Miami sarebbe quasi finita la serie, perché con due match point in casa, in linea di massima, la storia insegna che alla fine la serie la porti a casa. Però visto che ci sono state quattro partite, una diversa dall'altra, e visto che, come è indubbio che Miami abbia qualcosa di più di San Antonio quando girano tutti i cilindri, credo che sia anche indubbio che Miami però a far girare tutti i cilindri fa fatica, soprattutto con continuità. Io penso che domenica sia veramente il più classico dei 50-50 e o decide la serie perché vince Miami o orienta la serie un po' più verso San Antonio se vincono gli Spurs. E buon divertimento a tutti, soprattutto a te. Grazie Flavio Tranquillo. Grazie a voi. Ed è davvero tutto, un saluto e un ringraziamento a Giorgio De Luca, autore di questo magazine, a Gianmarco Ferronato in regia. Tutti convocati, torna lunedì al solito orario delle 14. Un saluto da Giovanni Capuano.